Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 14° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Forse fa un po' strano dirlo adesso, ma pare proprio che Roma sia una delle città europee meglio collegate ad internet. La banda larga, sì, ha ancora dei buchi, si sta lavorando per porvi rimedio, ma nel frattempo la provincia festeggia il 500° hotspot Wi-Fi ad accesso libero e le chiavette mobili sono ormai un fenomeno di massa. All'orizzonte, oltre però la stretta quotidianità, si intravedono impatti sociali più profondi. Il web fornisce alle persone i mezzi per trovare nuove modalità di aggregazione che superano di slancio le tradizionali barriere tra quartiere e quartiere. Le stesse architetture, gli stessi edifici acquisiscono nuovi significati e costruiscono un nuovo vissuto più condiviso e partecipato. Sta forse nascendo una cultura digitale tutta capitolina? Ne parliamo tra pochissimo. Oui, la ville est une construction dans l'espace. Les éléments mobiles de la cité? Je sais pas. Les habitants? Oui, les éléments mobiles sont aussi importants que les éléments fixes. Aucun événement n'est vécu par lui-même. On découvre toujours qu'il est lié à ce qui l'entoure. Et peut-être que tout simplement l'observateur de ce spectacle... C'est moi. Chaque habitant a eu des rapports avec des parties définies de la ville. Et avec quoi? Ah oui. L'image qu'il en a est baignée de souvenirs et de significations. La vita è una costruzione nello spazio. Gli elementi mobili della città, gli abitanti, sono importanti come quelli fissi. Ogni avvenimento è legato a ciò che lo circonda, ogni abitante ha un rapporto intimo con le parti distinte della città. E l'immagine che ne ricava è piena di ricordi e significati del tutto soggettivi. Era un brano tratto da Le due tre cose che so di lei, il capolavoro di Jean-Luc Godard, che abbiamo ripescato per questa puntata dedicata a come questa città sta cambiando anche grazie a internet nelle modalità di aggregazione tra le persone. E abbiamo in studio per parlarne, intanto, alla mia destra, Luca Lagna. Buongiorno Antonio. E anche Ermanno Iannacci alla mia sinistra. Buongiorno. Ermanno, che poi insomma spiegheremo bene perché abbiamo deciso di coinvolgere, oltre al fatto che è un blogger, frequentatore di vari social media, eccetera. Di sicuro sono due persone che conoscono molto bene la città, che conoscono molto bene questi strumenti. Poi più tardi avremo un altro personaggio molto illustre che interverrà per telefono. Intanto ecco, con Luca, che è anche appassionato di urbanistica, come del resto anche il sottoscritto, io ci capisco veramente poco, però condividi questo fatto che Roma è una città tradizionalmente divisa in aree che sono abituate a non parlare molto tra di loro, in quadranti, no? Abbiamo sempre detto nord-ovest, sud-est, nord-est, sud-ovest. Ci sono tante identità, tanti quartieri, però tra i quadranti è abbastanza facile vedere questa chiusura. Ci sono dei vincoli logistici, è stato per tanto tempo difficile anche spostarsi, lo è tuttora, però forse internet sta cambiando qualcosa, sei d'accordo Luca? Beh sì, sono d'accordo, anche perché in prima persona ti posso dire, per il lavoro che faccio, mi rendo conto di come sia possibile superare questi limiti proprio attraverso le nuove tecnologie. Certo che la città, per la sua storia, no, e per la sua costruzione, no, negli ultimi 60 anni, ha delle inerzie che sono molto difficili da superare. Attenzione. Sì, no, è vero, sono delle difficoltà. Il punto è che ciò che aggregava le persone, che una volta anche questo termine coatti, no? Si diceva che le persone venivano chiamati coatti, però non si indagava sull'origine di questo termine, no? Prima che costruissero un mezzo di trasporto di massa, la metropolitana che collegava la popolosissima periferia sud-est con il centro di Roma, questa gente era costretta, era coatta in qualche modo ad aggregarsi là dove viveva, in questi palazzoni, dormitori, eccetera. Invece poi ha cominciato a vivere il centro, che ha subito una radicale trasformazione, prima commerciale, perché era l'unico centro commerciale della città, e poi con i centri commerciali c'è stata un'altra trasformazione. Ermanno, è così? È così, sì. Io ho visto negli ultimi tempi che oggi, cioè diciamo che oggi è il contrario, cioè oggi si parte dal centro per andare fuori, perché i centri commerciali sono quasi tutti in periferia, sono stati costruiti più o meno sulla cintura del raccordo, cambiando il verso che invece avevano i nostri genitori, che era quello di partire dalla periferia, andare per esempio una volta al mese a Via del Corso o a Via Nazionale, cioè le vie che erano dello shopping. Oggi è il contrario, si va verso fuori. Ecco, chi ascolta normalmente Conversational dirà: ma di che stanno parlando questi? Che c'è, di solito parlano di chip, di device, di tecnologia di mercato, che c'entra con internet tutto questo? Ma noi ci siamo un po' documentati e siamo giunti, non alla conclusione, però a mettere insieme degli indizi. Gli indizi che ci raccontano come ciò che aggrega le persone comincia a essere un po' meno l'appartenenza sociale, ai gruppi, alle abitudini orizzontali, lasciatemi dire, e un po' più magari gli interessi verticali, perché le persone riescono ad aggregarsi prima online intorno a interessi verticali. Ci sono gli appassionati di cinema, gli appassionati di musica indipendente, gli appassionati di qualche sport magari poco famoso, che si ritrovano online e poi, scavalcando le tradizionali barriere, no, della città, poi si ritrovano e si conoscono nella vita reale, creando tutta quella rete che Nicola Mattina chiamerebbe la rete delle relazioni deboli, no? Che prima non avevano una piattaforma in grado di aggregarle e quindi tirarne fuori, spremerne anche lì un valore relazionale. Oggi in qualche modo questo è possibile. Luca? Posso dire, ne sanno qualcosa gli egiziani e i tunisini, eccetera. Voglio dire, no, il potere aggregante di internet, che noi abbiamo visto fin dalla metà, no, degli anni 90, piano piano svilupparsi, immaginavamo questo futuro, forse il futuro è arrivato, perché le possibilità di aggregarsi, le possibilità di, come dici te, di superare determinate barriere e di fare, quindi organizzare e pensare e mettere in contatto gruppi e persone che prima non sarebbero stati così facilmente in contatto, probabilmente è arrivata. Certo. E una città come Roma si vede particolarmente, proprio perché i muri sono più alti, sono storicamente, sì, più alti. Sì, hai ragione, mette in evidenza cose che magari in tante città sono più naturali, no? Penso per esempio a Berlino, che hai parlato di muri, no? A un certo punto due parti molto importanti della città sono entrate in relazione, innescando dinamiche tutte nuove e riempendo spazi completamente nuovi. Su questo tema poi si innesta un altro tema ancora, una puntata un po' più complicata, intrecciata del solito, che è la scoperta di una Roma contemporanea, che ormai ha la dignità di costituire una attrazione di per sé, cioè cominciano a esistere nuovi monumenti, si sono rotti dei tabù, esistono dei nuovi luoghi di aggregazione, e c'è anche chi ha scritto libri, no, su questa Roma, che normalmente era l'eccezione, adesso per molti diventa un po' la regola, come adesso i posti, vabbè, li conosciamo, l'Auditorium, la Rapacis, Circolo degli Artisti. Il Circolo degli Artisti, ci sono svariati luoghi dove insomma, le persone si incontrano e trovano nuovi spazi per fare cose nuove. E al tempo stesso vediamo come internet aggrega invece contenuti per scoprire la Roma che non c'è più. Ascoltiamo questo inserto. Buongiorno. Buongiorno, bentrovata. Abbiamo Grazie. Detto un profilo su Facebook veramente particolare, 80.000 utenti hanno aderito al vostro profilo, al vostro sito, perché è diventato un vero e proprio sito di fotografie e di articoli di giornale che ricordano una storia della nostra capitale, una storia un po' dimenticata, a volte dimenticata. Com'è nata l'idea di questo profilo Facebook? Guardi, l'idea è nata a un nostro collega, amico, lo scorso anno, in primavera, a marzo, l'idea è stata di Daniele Chiù, che aveva aperto semplicemente un gruppo con pochi amici per raccogliere fotografie di Roma. Noi ne stiamo vedendo soltanto alcune, ecco, c'è una bottega degli abiti usati, ancora il Colosseo Quadrato, una foto storica del Colosseo Quadrato dell'Eur, e ci sono tanti ricordi, ma episodi, piccoli tasselli della nostra città. Lei è un'archeologa, giusto? Sì, sono un archeologo. Lei è un'archeologa, ma chi partecipa a questo sito? Chi arricchisce giornalmente questo sito? Ci sono nostalgici, appassionati, addetti ai lavori? Sì, la pagina si regge grazie all'apporto dei fan. L'abbiamo creata in quattro. Tra dicembre e maggio siamo passati da 2.000 iscritti a 80.000. C'è stato un boom proprio durante le vacanze di Natale. Ecco, vediamo una vecchia pizzicheria. Noi intanto, mentre stiamo chiacchierando, vediamo scorrere le immagini. E poco prima abbiamo visto addirittura un vecchio concorso, che forse nel 1911 c'è stato il concorso della principessa di Roma, la reginetta di Roma. Sì, bellissimo. Quelle ci sono arrivate pochi giorni fa. Ce l'ha mandate un signore. Quindi alcuni mandano le foto private che tirano fuori dai cassetti, le foto dei nonni e dei bisnonni. Altri scartabellano i libri che hanno in casa, spesso anche i libri rari. Abbiamo visto anche ritagli di giornale, episodi che hanno fatto grande la nostra Roma, con poi con dettagli anche particolari, singolari. Sì, qualcuno sta iniziando anche a mandarci notizie di cronaca dell'epoca, ritagli di giornale, poesie, autografe. Il sito sta crescendo, noi le auguriamo che cresca sempre di più e che naturalmente i nostri cittadini conoscano sempre più nei dettagli la storia e la nostra capitale. Allora, abbiamo sentito la voce di Lucia Prandi, intervistata, se non sbaglio, su Radio 3, che descriveva i miracoli, gli straordinari risultati di questo progetto, che è un vero e proprio monumento al crowdsourcing, cioè praticamente è partito con una sorta di appello a tirar fuori le foto da un baule, è venuta fuori una collezione di fotografie di Roma come non c'è più, con angolazioni mai viste, da fare invidia, non dico all'archivio Alinari, però insomma... non c'è un modello di business dietro, e quindi ancora una volta la rete conferma questo suo straordinario potere anche di aggregazione di contenuti. In linea dovremmo avere Carlo Infante. Carlo, ci sei? Hola, eccomi. Ciao Carlo, allora ciao. Questo è il caso di una persona che non ha bisogno di grandi presentazioni, essendo un storico autore radiofonico, nonché personaggio insomma che anima molti eventi culturali in questa città e non solo. È inutile, adesso sarebbe troppo lungo spiegare tutte le cose che hai fatto, ma noi ti coinvolgiamo perché, soprattutto perché sei una persona che riesce a dare nuovi significati sicuramente alla città con le tue iniziative. Parlaci di Urban Experience, per esempio. Beh, è proprio quella che hai detto, dare significato alla città, che la città è spazio pubblico, e lo spazio pubblico non è solo un contenitore, è un contenuto, e i contenuti siamo noi. Ecco. E questo è l'elemento interessante di cui stiamo trattando, di come poi la rete possa riuscire ad espandere questa potenzialità. È come fosse un'amplificazione, come se fosse un'estensione. Se pensi poi all'origine del concetto della parola tecnologia, tecne, no? È estensione del corpo e della mente. Dai primi arnesi fino a oggi la rete o le forme dell'interaction design, il rapporto che abbiamo con il mobile. Ecco, il mobile viaggia con noi. Il fatto di utilizzare i nuovi sistemi di comunicazione come gli smartphone, come i GPS, per poter giocare la città è una delle cose che noi stiamo facendo come Urban Experience. Ecco, giocare alla città è un'espressione bellissima che mi rivenderò al primo aperitivo utile. Comunque, scherzi a parte, tu parli di qualcosa che somiglia un po' alla realtà aumentata, ma non lo è. Forse somiglia un po' di più alla umanità accresciuta di cui parla Granieri nel suo libro, un po' delirante però con alcuni spunti molto interessanti. Ma sono tutte e due le cose. Io penso che da sempre l'uomo adotta tecnologie che siano funzionali alla propria evoluzione, no? Io penso a tutto quello che sta accadendo, no? Hai presente la legge di Moore, no? Che dice ogni 18 mesi i sistemi digitali raddoppiano le loro possibilità. E noi raddoppiamo, estendiamo la nostra, le nostre qualità. Se non giochiamo questa scommessa antropologica con le tecnologie, rischiamo nell'arco di una generazione di ritrovarci in un mondo eterodiretto. Io penso che il grande nodo sia qui, inventare delle forme, dei format. Uso questa parola format perché la voglio portare via dalla televisione, non è perché male. È una parola giusta, inventare dei format di comunicazione interattiva dove l'interattività propria delle tecnologie si possa tradurre in partecipazione. Questo è possibile, quando parlavi del crowdsourcing, è quella cosa lì. La grande partecipazione, la grande conversazione, appunto conversazione che poi è il titolo della tua trasmissione, possa produrre un valore. E mi piace poter pensare che questo valore possa addirittura anche raggiungere una definizione economica. Si parla di nuova rete del valore. Cioè c'era la catena del valore che era quella industriale. Sì, anche quella sta migrando verso gli ecosistemi del valore, no? Come se ci fosse sempre un agnello sacrificale che può anche essere in perdita nell'ecosistema a vantaggio di tutti gli altri, però è un concetto un po' più profondo il tuo. Però qui i modelli industriali stanno andando in pezzi, non funzionano più. Poi in un paese come l'Italia siamo di fatto veramente alla periferia dell'impero industriale nel sistema globale, rischiamo di subire questo deficit, no, di sviluppo industriale, ma possiamo mettere in gioco qualcos'altro. In Italia, dico e lo sottolineo, in Italia perché c'è un rapporto fortissimo con il territorio. Noi abbiamo inventato lo spazio pubblico in Italia, se pensi le piazze rinascimentali, c'è nella cultura italiana, io uso questa accezione cultura in termini molto estesi, dove la cultura è più una dimensione antropologica che una dimensione estetica e sovrastrutturale, non riguarda solo le arti, bensì la creatività sociale. Attraverso la rete è possibile giocare questo spazio pubblico, giocare le città, interpretandole per la loro potenzialità vera, quella di rendere migliore la vita in primo luogo. Proprio l'altro giorno, proprio all'incontro che si è fatto in Parlamento sull'economia dell'innovazione, parlavo a un certo punto di come certi modelli economici riguardano esperienze come la filiera corta, è presente la filiera corta? Sì, certo. Ecco, la rete può riuscire a favorire dinamiche di organizzazione funzionali a creare modelli economici attraverso la capacità della gente di auto-organizzarsi. Ecco, tornando se anche... al discorso della città, questa cosa diventa evidente. Si è creata anche però un'area di consenso per gli scettici, no? Su questo tema ci sono, diciamo, gli esaltatori della disintermediazione, quindi la catena corta, e poi ci sono anche invece quelli che dicono che semplicemente i vecchi intermediari sì sono forse da rottamare, ma ci saranno dei nuovi intermediari che provano a fare in tanti. Luca, tu che ne pensi del tema, del dibattito sulla disintermediazione? Ma penso che sì, è vero quest'ultimo discorso che fanno, diciamo, i cosiddetti conservatori, perché è possibile che accada questo effettivamente, però la tendenza della tecnologia è allo stato attuale, quello di disintermediare, quindi quello che succederà probabilmente va in questa direzione. Non abbiamo la sfera di cristallo e non sappiamo esattamente. Sì, ma non è neanche il nostro ruolo. Carlo, durante la Social Media Week succede qualcosa che ti riguarda, se non sbaglio, il 10 febbraio. È uno di questi episodi partecipati o di che si tratta? Beh, è proprio uno di questi format di cui ti parlavo prima, che poi sono in fondo, ecco, è un uovo di Colombo, sono delle passeggiate, passeggiate radioguidate, usiamo un sistema radio, quello banale che usano i turisti, avete presente, si chiama il Whisper, sì. Queste radiotrasmittenti a raggio corto, ne ho già fatte una a Firenze al Festival della Creatività con Derek De Kerkhoff e altri amici, conversando, camminando, mettendo insieme i diversi punti del Festival della Creatività sparsi nel centro storico di Firenze, e sì, poi si parlava. Un po' di amici e altre persone si aggregavano con queste cuffiette e ci seguivano. La cosa che è interessante del conversare camminando, a parte che è una bella cosa conversare camminando, quindi attraverso lo spazio pubblico, e incontri delle persone per strada o descrivi alcune situazioni. Quello che faremo giovedì 10 febbraio, partiamo alle 5 dal quartier generale della Social Media Week, che è a Corso Vittorio, sì, la sede di Ateneo Impresa, sì. E facciamo un giro e toccheremo alcuni luoghi, tipo il Tempio d'Adriano, dove già a ottobre come Urban Experience abbiamo lanciato questo tema della nuova rete del valore, sulla ricchezza prodotta dal comportamento creativo degli utenti, dove Urban Experience ha lanciato un po' le sue strategie. E lungo questa conversazione, appunto con le radioline, incontreremo un po' di amici protagonisti delle culture dell'innovazione a Roma, per finire a Palazzo Firenze, dove c'è la sede dell'Istituto Dante Alighieri, non so se è presente, sì, sì, è l'istituto che si occupa della conservazione della lingua italiana. E lì dentro stiamo facendo un lavoro, io sto collaborando con loro, con un progetto che si chiama Art and Wireless, sulla trasformazione della lingua e della cultura italiana. Bene, allora intanto diamo l'appuntamento, poi abbiamo fatto la settimana scorsa una puntata tutta sui tantissimi appuntamenti della Social Media Week, dove insomma persone del calibro di Carlo e tanti altri avranno modo di raccontare in che modo la rete cambia la città. Noi ringraziamo tantissimo Carlo Infante e mandiamo in onda un altro dei nostri inserti. L'Atlante delle visioni, in particolare l'Atlante di Roma in questa veste. Le quattro visualizzazioni quindi mostrano quattro modi di rappresentare tutte quelle persone, quegli studi, quegli architetti, quei professionisti, quelle persone normali, quelle istituzioni che hanno avuto delle visioni su Roma. La prima le mostra per temaglia, quindi ci sono le visioni che sono rappresentate come delle piccole macchine tonde che girano alimentate dalle tematiche, infatti si vede che traggono proprio il loro sostegno dai temi. La seconda è una nuova visione del territorio, perché è una mappa senza territorio, è una mappa in cui le visioni sono presentate sul territorio, ma sotto non c'è la cartina geografica, quindi è un territorio descritto dai progetti che descrivono, che creano la nostra realtà, no? Dei progetti, delle azioni e tutte le cose che creano appunto quello che noi viviamo come città. La terza visualizzazione è una specie di serpentone delle televisioni, quindi c'è questa processione, sembrano delle processionarie che incedono, e si chiama Bridges perché incedendo sono circondate le tematiche da tutte le visioni che parlano di quelle tematiche e si stabiliscono dei ponti, no? Quindi si stabiliscono dei collegamenti tra una tematica e l'altra grazie proprio alle visioni. E l'ultima rappresentazione è quella del tempo, quindi ci sono tutte le visioni rappresentate lungo l'asse del tempo e semplicemente messe in relazione tra loro, quindi sia per esempio quando una azione, un progetto è iniziato e finito, quindi in quel caso ci sarà un arco, sia quando due azioni nel tempo parlano della stessa cosa, no? Di cose simili, quindi anche in quel caso ci saranno degli archi, quindi si visualizzano, e quindi si ha una visione lineare proprio estesa per estesa del tempo, una linea del tempo fondamentalmente, e questo. Allora, la voce che abbiamo sentito è quella squillante, anche se era un po' nascosta da questi effetti, perché poi questa intervista si è svolta proprio lì, alla Pelanda, dove c'era questa installazione straordinaria, l'Atlante delle visioni. Salvatore Iaconesi è uno dei grandi provocatori, ma provocatori in senso buono, di queste sinapsi, di questi nuovi fenomeni urbani. Sicuramente anche un artista, però è una parola forse un po' riduttiva in questo caso. L'Atlante delle visioni è un modo per fare dell'architettura, dell'urbanistica forse meglio, partecipata, perché già l'installazione ha un grande livello di interattività con le persone che l'hanno utilizzata nel periodo in cui era esposta lì alla Pelanda, al Macro, a Testaccio. Ma poi, e questa è subito una domanda che rivolgo a Luca, perché lui è l'esperto di interaction design, la cosa affascinante è che questa cosa continuava a vivere in rete, esponeva delle API pubbliche, quindi era possibile scrivere delle applicazioni che richiamassero i dati di questo Atlante delle visioni, e le persone hanno continuato a interagire e a inserire la propria visione della città. L'indirizzo lo potete fare ancora, l'indirizzo www.atlantedellevisioni.net. Luca, una bella cosa quella che ha fatto Salvatore. Ma bellissima. Io volevo, prima di questo, rispondere anche sul fatto di Roma Sparita. perché è molto interessante. E il fatto, sentivo, no, nell'intervista si parlava di questa cosa, dei ricordi, eccetera. E da un altro punto di vista, in realtà, quello che stanno facendo è memoria. Certo. Quindi, come se noi potessimo vedere, potessimo immaginare la città come, non so, un computer, stiamo parlando della memoria di massa, cioè la memoria, quello che ci ricorda il passato. Una volta si diceva la memoria collettiva, oggi si parla oggi di memoria di massa. Bellissimo. Memoria della massa. Prova a immaginare la città come connessioni, processore, memoria e così via. E in questo caso, quindi, che succede? Che probabilmente la tecnologia modifica in qualche modo la città, perché dà nuovi significati, che è poi nella linea effettivamente di quello che fa anche Carlo Infante. Il discorso dell'Atlante va sempre su questa linea qua. Ha un ruolo particolarmente importante l'interaction design, perché non è semplicemente una disciplina che attiene al mondo del digitale o ad internet. È qualcosa che stanno utilizzando ormai da tempo anche gli architetti, grandi studi di architettura. È una cosa di cui si tiene conto nella progettazione partecipata, che è un'altra delle parole chiavi importanti sulle quali stanno ricercando anche in Italia, anche molto bene a Roma, la Sapienza, i dipartimenti di urbanistica, l'ingegneria del territorio stanno cercando molto bene, perché è un aspetto che nel resto del mondo sta innovando moltissimo, ha innovato moltissimo in Spagna, innova moltissimo in Nord America e in altri posti. E da noi però naturalmente abbiamo bisogno della collaborazione di chi? Dei decisori, quindi dei politici. A proposito dei politici, Ermanno, tu sei una persona che segue molto quello che succede anche nel palazzo localmente, e sicuramente la provocazione di Salvatore Iaconese con l'Atlante di Roma è anche una risposta a quello che accadde a un certo punto, no? Col Comune di Roma, che fece una riunione con Alemanno e alcune grandi archistar per scrivere su un pezzo di carta quello che doveva essere a quel punto il futuro di Roma. L'unico output di questa fantomatica riunione fu un comunicato stampa che fu poi ripreso dalla stampa, grandi foto di Alemanno con Meyer, Zaha Hadid e altri grandi personaggi dell'architettura. Livello di partecipazione zero, e così Salvatore si arrabbia, vorrei usare una parola più efficace, però più puntuale, e crea questa cosa che ha una risonanza, un livello di coinvolgimento. Poi fu durante la festa dell'architettura, che fu una manifestazione, è stata una manifestazione straordinaria, andò oltre le più rosee previsioni di partecipazione, che molti dissero, ma sì, vabbè, la festa dell'architettura a chi può interessare? Agli architetti, agli urbanisti? Invece no. Tanti romani andarono a questi eventi, anche alla Casa dell'Architettura. È il segnale di qualcosa, Ermanno? Allora, se ci pensi, sono già un po' di anni, almeno una ventina d'anni, che comunque esiste l'idea della progettazione partecipata, cioè del coinvolgimento del quartiere, della popolazione nei cambiamenti che riguardano loro. Anche qui non esisteva. Nel dopoguerra le opere pubbliche venivano fatte e basta, nessuno veniva chiesto un parere, veniva chiesto qualche cosa. Quindi è una cosa nata, se possibile, nata addirittura anche prima della rete. Poi oggi è stata una cosa del genere, è stata fatta per esempio dal Partito Democratico, che ha raccolto i pareri sul Gran Premio di Roma, o ormai poi tutti comunque tirano fuori un blog, un sito in cui ci sono i commenti di quello che viene proposto, viene commentato, le iniziative, e l'ha fatto comunque anche il Comune, al di là, diciamo, poi delle strette di mano e delle foto, perché quelle hanno il vantaggio di non costare nulla, a differenza dei progetti. Comunque sia, anche il Comune di Roma ha fatto alcune iniziative in cui chiede online, possiamo usare questo termine, il parere ai residenti, agli abitanti, su dei progetti. Per esempio, in Nord America esistono le pubbliche assemblee, che si vedono anche in certi film, no? in cui ancora non esisteva la rete, magari, però il livello di partecipazione, almeno consultiva, della popolazione su alcuni progetti che riguardano la loro vita è anche ormai rappresentato a livello di cultura di massa. Però c'è un peso enorme della comunità lì, cioè nel senso, lì è proprio l'organismo più piccolo di governo, addirittura c'è l'autoamministrazione dei condomini, ci sono i condomini che decidono che non vogliono fumatori, quelli che non vogliono certe religioni, eccetera. Ma guarda, per spiegare quanto la rete cambia veramente il nostro approccio individuale ai piccoli problemi, ti racconto un aneddoto che mi riguarda, di cui non avevo minimamente intenzione di parlare in trasmissione, ma mi viene in mente adesso. un bel giorno io mi resi conto che nella piscina dove vado l'orario all'uscita dall'ufficio per fare nuoto libero non era disponibile, e così ho preso un pezzo di carta e ho cominciato a raccogliere nello spogliatoio della piscina le firme degli impiegati, dei professionisti che andavano a quell'ora per capire appunto se si poteva cambiare l'orario, e l'ho appeso alla bacheca. Non ha avuto grande seguito questa iniziativa. Poi sono tornato a casa e mi sono posto una domanda: ma se non ci fosse stata internet ad abituarmi a prendere io l'iniziativa su queste cose, avrei fatto questa cosa nel mondo reale? È anche un discorso psicologico, Luca. Beh sì, no, ma voglio dire, è esattamente quello a cui ci abitua, il tipo di interazione a cui ci abitua. Io però volevo dire un'altra cosa in più. Uno degli aspetti della progettazione partecipata, oltre alla consultazione, è anche quella che si chiama oggi, no, la coprogettazione, la co-creazione. Quindi creare decisori, cittadini e esperti, progettisti, creare insieme, modellare insieme, in questo caso, la città. Mi è capitato in passato di collaborare dal punto di vista digitale a dei progetti che riguardavano gli urban center a Roma, del municipio, dei municipi, e mi sono reso conto presto che le mie metodologie, metodi quindi di interaction design, eccetera, corrispondevano incredibilmente a quelli dei progettisti urbanistici con i quali lavoravo fianco a fianco, per cui ci guardavamo e dicevamo: ma io faccio questo, ma anche io, è la stessa cosa, stiamo facendo la stessa cosa. Quindi, come per dire che c'è effettivamente una corrispondenza, no, tra il reale e il digitale, però in realtà poi il digitale, come dici, supera le barriere e quindi riesce a dare nuovi significati. Bene, e per chiudere con un esempio mirabile, direi, di crowdsourcing, anche se abilitato probabilmente da due comunità ristrette, sto parlando di chi sta sul famigerato social network Friendfeed a Milano e chi sta sul famigerato social network Friendfeed ma vive a Roma. Beh, io, Ermanno, vorrei che tu ci parlassi di questa cosa che si chiama Quel pasticciaccio bello, un progetto che unisce le due città in qualche modo. Allora, la raccontiamo, la prendiamo lunga, diciamo, se possibile. Sì, abbiamo ancora 5 minuti. Okay. L'idea in un certo senso è di un signore milanese, un certo Squonk, detto il Ser, blogger della prima ora, di quelli, insomma, dei primi che hanno aperto un blog in Italia, che nel 2003 riesce a convincere un po' di persone a fare un progetto di scrittura sul Natale. Cioè, tutti quanti scrivono nel periodo natalizio, scrivono un racconto, mandano una foto, mandano semplicemente una riga che parli del Natale, e li mette tutti insieme in un PDF che poi viene scaricato dal suo blog. Questa idea esiste ancora nel 2010, è arrivato a più di 100 autori, è diventato quasi leggenda, quindi c'è chi lo prende in giro e scrive il post per Natale a marzo, oppure sono leggenda. Si chiama Il post sotto l'albero. Lo diciamo perché chi vuole andarselo a ricercare. Oppure le sue email per ricordare che è ora di mandare, è tutto diventato leggenda. Un po' di tempo fa, appunto, lui ha l'idea, parlando con suoi amici milanesi, di fare un progetto di foto di non milanesi, cioè di gente che passa a Milano per lavoro, per turismo. E siamo in tanti. Cioè, un bel po' di gente, soprattutto a Milano. E poi, sulla foto, dei milanesi invece, dei milanesi veri, scrivono un qualcosa, un racconto, ispirandosi o meno alla fotografia che hanno visto. Lo intitola My Own Private Milano, prendendolo dal film di Gus Van Sant, che a sua volta l'aveva preso dalla canzone di B-52. A quel punto a noi viene in mente, a me più che altro, ma a mia sorella, che è la veramente pratica, Federica, viene in mente di dire: perché non farlo anche per Roma, una cosa del genere? Cioè, perché, d'altra parte, voglio dire, per Roma c'è da scrivere, c'è da dire molto. E ha messo solo come paletti un paio di cose. La prima è che la foto fosse periferica, ovvero che non fossero il Colosseo, la Fontana di Trevi, eccetera, su cui, insomma, l'hanno visto tutti mille volte, milioni di volte, eccetera. Quindi una foto periferica, soprattutto difficilmente identificabile, perché una foto di Torbella Monaca, del Laurentino, della campagna, del Parco della Caffarella, è difficile da inquadrare, insomma. Quindi gli scrittori, che allora invece al contrario devono essere non romani, voglio dire, avrebbero avuto un lavoro ben più difficile, diciamo, nel dover diciamo scrivere qualcosa, mettendo qualcosa, un paesaggio che non era immediatamente riconoscibile, un paesaggio che non era facile. Ci siamo fatti ovviamente aiutare, abbiamo avuto la consulenza del SER, specialmente nel convincere gli scrittori, che è la cosa, diciamo, un po' più complicata. E l'output di tutto questo sarà ancora un PDF? Un PDF, quello non... E quando sarà disponibile in rete? Disponibile in rete, lo stiamo impaginando, lo stiamo mettendo, credo all'inizio della prossima settimana. Va bene, d'accordo. Allora io leggerò con interesse, anche perché c'è pure una mia orrenda fotografia in quel PDF. E ringrazio naturalmente Ermanno Iannacci e Luca Lagna per aver messo parecchia carne al fuoco. C'era un po' il rischio, visto il tema veramente di uscire dai binari, anche perché avevamo la mente vulcanica di Carlo Infante per telefono, forse siamo riusciti a non deragliare più di tanto. Vorrei ricordare intanto che il gruppo di Facebook Roma Sparita, vabbè, è facile trovarlo su Facebook, basta cercare Roma Sparita nella barra di ricerca. Invito tutti a guardare queste foto perché sono straordinarie, spettacolari. L'Atlante delle Visioni, www.atlantedelevisioni.net. Il progetto Quel Pasticciaccio Bello, vabbè, basta fare una ricerca su Google e salterà fuori questo PDF. Prima hai parlato del numero di tua sorella Federica, però diciamo anche che è nota come Frattaglia, esatto, su Friendfeed, mentre tu sei nota come numero 6. Io invece sono noto come Antonio Pavolini. Vi ricordo a tutti che tutte le puntate di Conversational sono scaricabili dal blog www.conversational.it. C'è il podcast, abbonatevi, ascoltatelo in fruizione asincrona e vi ringrazio ancora una volta e arrivederci alla prossima settimana.